Angelo viene chiama dalla provincia di Lucca. Buongiorno. Buongiorno, sono Angelo. Premetto che faccio l'arbitro, però sì. Io volevo fare una riflessione su quello che è successo sabato. Cioè, il gol del Netter, viziato da una posizione di punibilità netta, evidente, ok. La partita va avanti, il risultato è a favore della Roma, tutto tranquillo, finisce la partita, se ne parla così vagamente, però nessun dramma. Mentre la Fiorentina subisce un torto simile, viene giù il mondo, arbitro condannato, assistente condannato, malafede, tutte discussioni giustificate dall'episodio, però ecco la soglia sottile del risultato che condanna un arbitro mentre assolve, certo, cioè, in modo così velato, l'assistente di Roma Inter. Ragionamento, cioè, ineccepibile. Ecco, questa riflessione andrebbe fatta per aumentare un attimino la cultura dello sport in Italia, sì, sì. Perché cioè, dovete capire che un assistente, un arbitro in particolare, è calcolato l'errore umano. Io, la mia opinione è quella che un arbitro può sbagliare quanto un giocatore può sbagliare un calcio di rigore. Sono d'accordo, Angelo, o come una parata, cioè l'errore non dell'arbitro, ma dell'assistente sul fuorigioco, sul gol in fuorigioco che dà il pareggio all'Inter, è un errore della stessa gravità di quello che Julio Cesare ha compiuto nel primo tempo con quella papera abbastanza incredibile.